49. La terra era umida e soffice. Le pale scavavano senza trovare ostacoli. Joseph e Kanatawa Kon lavoravano in fretta. Isaac cingeva con un braccio le spalle di Cristina. Margaret girava intorno ai due guerrieri e li guardava, come per assicurarsi che il lavoro procedesse bene. Il resto della colonna bivaccava poco lontano, ma solo la famiglia Brent assisteva alla sepoltura del grande diavolo. Sepoltura senza riti, né cristiana né pagana, in attesa di riprendere il viaggio. Fornagara era ancora molto distante. Il corpo di Philippe era avvolto nella coperta di Margaret. La vecchia lo aveva visto morto, sdraiato sulla lettiga di rami e legacci. Mormorando qualcosa, si era tolta di dosso il grande straccio impolverato e si era fatta avanti. «Sei sicura, nonna?» aveva chiesto Isaac. «L'aria è fredda». «Non importa. Non mi rimangono molte lune. Presto me la restituirà». Joseph aveva dato alla madre la propria giacca di lana. La vecchia la portava come fosse uno scialle. In pochi minuti, Joseph e Kanatawa Kon scavarono una fossa profonda a 5 piedi. Era il momento di calare il corpo. Joseph sentiva l'incombenza e la fatica premere forte contro la gola, come 2 mani decise a strangolarlo. Sul ciglio della fossa si sentì vacillare. Kanatawa Kon lo afferrò per un braccio. «Questa tomba reclama anche me», commentò Joseph, «ma non è ancora il tempo». «Siediti, Tayandanega, sei stanco», disse il suo compagno. «Da quanto tempo non dormiamo, Kanatawa Kon?» «Ho perso il conto dei giorni, fratello». «Anch'io». Joseph si allontanò di 2 passi e chiamò il figlio. «Isaac, dai una mano. Impara a seppellire i morti». Isaac si staccò dalla sorella. Joseph prese il suo posto. La bambina si strinse a una gamba del padre. Kanatawa Kon e Isaac sollevarono il corpo per le spalle e per i piedi. Lo trasportarono con brusca solennità. Lo lasciarono cadere nella fossa. L'ultimo viaggio di Rona a Tarionte fu un volo rapido. L'atterraggio non produsse alcun rumore. La terra morbida accolse il corpo e parve modellarsi intorno a esso. Il guerriero e il ragazzo afferrarono le pale. Joseph li fermò. Si rivolse alla madre. «Margaret, sei la più anziana, rappresenti il clan, la nazione. Di una parola per questo guerriero». Tutti tacquero. La vecchia si mosse, curva, barcollante. Si fermò a un piede dal ciglio. «I miei cari ti hanno voluto bene, Philippe Lacrosse. Mia figlia ti ha dato la vita. Una parte di mio figlio muore con te». Joseph sentì la morsa stringersi intorno alla gola, come per strizzare la testa, costringerla a buttare fuori lacrime. Gli occhi si inumidirono. «Mio nipote ti ha sepolto. Io ti saluto per ultima. Tutti pregheremo per te». Ciò detto si allontanò. Passò oltre Joseph e Cristina. Mise un passo dopo l'altro in direzione del bivacco di profughi. Joseph dette il segnale. Le pale sollevarono mucchi di terra.